se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Toglietemi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Che Renzi continuasse a fare politica, ma chi lo poteva dubitare? È un perfetto animale politico. E cosa andrebbe a fare nella vita se non fa politica? Non so, cioè è chiaro che continuerà a fare politica. E poi per il resto voglio solo, anche a me stesso, adottare quello che ha detto prima Pier Carditi, cioè che un parroco non deve ritornare nella propria parrocchia nemmeno per confessare. No, no, ma la musica è cambiata. Bisogna entrare a Palazzo Chigi, aprire finestre e portoni e far uscire il puzzo del compromesso morale. Un po' di vento di libertà anche a Roma, caro Fiano. Però... preparatevi, cari signori, al balletto della politica da qui fino a X giorni. Oh, ragazzi, che bel Natale che ci si prospetta. Eh sì, perché allora l'ultima è questa. Mattarella ha stoppato Renzi, altro che elezioni anticipate. Finché non c'è una legge elettorale omogenea per Camera e Senato, non si fa nulla, caro Renzi. E tra l'altro la Corte Costituzionale deciderà il 24 gennaio sull'Italicum, e quindi da qui al 24 gennaio che succederà? Ci vuole un governo, cioè non è che si può rimanere senza governo. E allora l'ultima di Renzi è stata questa. Allora sentite bene: o un governo dentro tutti, vuol dire PD, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, la Santa Alleanza, l'hanno già soprannominata. Oppure alle urne. Ma ve lo vedete un governo dentro tutti? Il governo in che si riunisce il Consiglio dei Ministri ci sono, non so, Salvini, ministro, Di Maio, Salvini, ministro degli affari regionali, Di Maio, ministro dell'interno. Allora, no, il ministro dell'interno è Alfano. Alfano è il ministro dell'interno sempre, comunque. Alfano lo metto ministro dell'interno, così. Alfano, ministro dell'interno. Di Maio, ministro dei trasporti. Ne mettiamo, chi vuoi, Peter? Dammi una figu, dai. Uno del PD. Peter, uno del Peter Bescapè. De Luca. No, De Luca e Di Maio nello stesso governo, anche voi, dai. Siete veramente... va bene tutto. De Luca va ai rapporti, pura cialtroneria, ecco. De Luca i rapporti col Parlamento, vale. Che spettacolo. Arriverà presto la puntata in cui faremo tutto con gli pezzettini, gli spezzoni di De Luca, e io faccio il labiale, solo muovo il labiale e De Luca conduce. Che spettacolo. Vabbè, alle 6:33 minuti, allora questo si prevede, mi piace questa idea della Santa Alleanza. C'è chi mi scrive al 349-238-6666, non sarebbe male, forse imparerebbero a comunicare tra loro. Ehi, amico, De Luca e Di Maio, ministri nello stesso governo, fai bravo. La rossa mi fa impazzire, scrive Mirko da Genova. A chi si riferirà mai? Chi lo sa? Forse alla nostra rossa del mercoledì? La nostra Paola Saluzzi. Buongiorno Alino, buongiorno. Buongiorno. Io buongiorno. Sono commossa da questi commenti, ma ho una notizia. Attenzione. Ho il nome. Attenzione. Ho il nome. Ma di ho chi? Di chi sarà il governo? Di chi sarà il nuovo premier in esclusiva da Sky? Premier. Da Sky. No, in esclusiva da Roma. Da Roma. Non questa volta, non da Sky. No. Il nome del nuovo premier. Attenzione. Signore e signori. Signore e signori. Alino Milan. No, aspettate. Chiedo ascolto. Chiedo a Peter Bescapie, chiedo a Lorenzo un attimo di ascolto, per favore. Allora, sono 7 giorni contati, sì, che io vado in giro e mi sento fermata da gente che mi dice: ma lei lavora con Alino Milan? Mi saluti, no. Alino. Allora, ti faccio anche un nome. Andrea di Molo 10, ristorante di Roma, devo farlo perché vabbè, lì si mangia gratis. Alino Milan, ma che è fantastico, Alino, quindi Alino Milan. Prima volta che vengo a Roma, lì è cena pagata. Lui è favoloso. E lui allora Andrea lo mettiamo subito sottosegretario agli esteri. No, ma veramente, Alessandro, buongiorno a tutti. Anzi, facciamo così, sotto, com'è che si chiama Andrea? Andrea di Molo 10. Andrea di Molo 10. Di Molo 10. Andrea di Molo 10, sottosegretario al Made in Italy con delega al food. Esatto. Però Alessandro, ho tirato i puntini come si fa nella figurina della settimana enigmistica, sì. Ed è uscito fuori il tuo volto, per cui incredibile. Nome. Andremo allo sfascio nel giro di 4 mesi. Sarà l'Italia affonderà, ma saranno, vi giuro, i 4 mesi più spettacolari della Repubblica Italiana. Sarà divertentissimo. Buongiorno, grande mito. Sarà buongiorno a tutti. No, effettivamente adesso ne vedremo delle belle, sì, e capiremo che cosa succederà. Allora, il nome di Alino Milan non lo trascuriamo. Insomma, se buttano dentro Giuliano Amato, Romano Prodi, perché non guardare un po' di nuovo? Allora, c'è la nostra Paola Saluzzi in questo giorno di festa. Di festa, sì, non mi sono ammattito. È festa, è Sant'Ambrosio a Milano, è festa, ma qui si lavora. D'altronde siamo internazionali, siamo italiani e quindi si lavora in tutta Italia. Insieme alla nostra Paola Saluzzi c'è anche il nostro super mega dir, il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno. Buongiorno. Pinguino. eccolo lì, pinguino ormai di De Luca, ormai te lo sei attaccato. Al super megadir che cosa diamo invece? Che ministero diamo? Ma lui il ministero degli esteri, perché lui ministero degli esteri, lui parla, lui viaggia, lui sta a Cuba, aveva fatto tutte le... Pensavo ai trasporti. Ai trasporti? No, più ministro degli esteri. Viaggi tanto, ma insomma è meglio ministro degli esteri, no? Tra l'Antartide, Cuba. Poi va, sai che va a Hollywood ogni tanto, ti dice sì, passava qui Charlize Theron. Io lo metterei al Ministero della Saggezza ed Eleganza, però. Capite che bel nuovo governo che nascerà? Avremo un Ministero della Saggezza e dell'Eleganza. Se sono dentro tutti, cani e porci, posso anche io. Avremo un Ministero della Saggezza e dell'Eleganza. Andrea al food al Made in Italy, Paola Saluzzi io consigliera, il ministro all'allegria Paola Saluzzi, e affonderemo con una gioia con una felicità incredibile. Ma quando mai? Vedremo, sale subito del 2%. Ma no, vedremo cos'è sta storia dello spread. Portami uno spritz che è meglio, andremo avanti allora, così. Vorrei garantire ai nostri ascoltatori che non abbiamo bevuto, ma siamo così alle 6:30 del mattino, figuratevi voi. Certo, ovviamente siamo normalissimi. Allora apriamo il Parlamento, forza. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete al bar. Oh, in realtà io vorrei evitare di parlare adesso tutto il giorno di politica, di scenari, perché tanto guardate che ci trascineremo, io non lo so cosa. Non so per quanto, non so per dove andremo. Diciamo una cosa, questa la capiscono tutti. in maniera chiara. Allora, ci dovrebbero essere, o auspichereste, delle elezioni prima o poi alla Renzi, febbraio-marzo, quindi fare un governecchio così, di che sistemi la legge elettorale e poi si vada a votare? Caro Luca Dini, tu auspicheresti questo, senza entrare in troppi meccanismi? Ma, mi sembra inevitabile, inevitabile. Poi vorrei fare una domanda, però, ma... che cosa deve fare la Corte Costituzionale da qui a fine gennaio? Controlli i regali di Natale, cosa che non è che possono anticipare questa cosa? Con calma, studiano. Vista la situazione, magari. Meditano, effettivamente ha stupito anche a me. Il 24 gennaio deciderà, appena dopo le vacanze di Natale. Ci sono questi riti per cui... Forse ci sono delle altre cose su cui deve decidere, forse ci sono... sicuramente, però questa magari in questo momento potrebbero farlo, diciamo, Ma poi tu sei sicura... salire nella pila delle cose. Sei sicura, Paola, che abbiano tutte queste... Non lo so, sto dicendo... Io non frequento abitualmente, però insomma, presumo che abbiano un po' di cose. Però siccome io il 24 gennaio non so neanche... dove sarò, esatto. Il 24 gennaio è così, quindi comunque tu Luca dici elezioni e prima o poi si vada a votare, ma mi sembra che le vogliano quasi tutti per come si è votato le vogliono gli italiani, credo. Di tutte due parti, mi sembra. Sì, forse gli italiani le vogliono anche da un po', nel senso che anzi lamentano molti che ci sono stati diversi governi legittimi, tutti, perché abbiamo spiegato varie volte che poi è il Parlamento che legge, però certamente premier che non sono stati... A questo punto le vogliono anche gli italiani che hanno votato sì. Evidentemente sì, Renzi, ricordate, continua a dire: se era un voto pro o contro di me, va bene, non saranno tutti miei, nel senso tutti coloro che hanno votato sì non saranno tutti per me, ma magari non 13 milioni, ma magari 10 milioni, magari un 25%, e allora Renzi potrebbe addirittura, qualcuno dice, farsi un partito fuori dal Partito Democratico. Comunque, tu Paola, che dici? No. Ma che il grande arbitro più che mai è il presidente Mattarella, sì, in questo momento, quindi che a parte deve decidere, abbiamo appena parlato della Corte Costituzionale, ma il grande arbitro in tutta questa storia è Mattarella. E lui non vuole votare, lui dice subito. No, il voto subito è visto come una reazione della reazione. Quindi da qui a dirvi che cosa succederà, veramente, insomma, vorrei avere la palla di vetro per azzeccare anche la data, oltre il 24 gennaio. Certamente c'è chi chiede il voto, c'è chi ritiene che il voto invece sia un'operazione esageratamente affrettata. Ma quindi cosa facciamo? Perché senza un governo non si può stare, anche se qui ci sono stati i paesi, la Spagna che è stata senza governo, il Belgio è stato due anni. Bisognerebbe studiare un po' di più Spagna e Belgio, questo sì. Studiarli. Ma noi non siamo in grado di stare senza governo, e quindi cosa faremo? Un governicchio? No, secondo me siamo perfettamente in grado, però... Storicamente dico, cioè, voglio dire, la gente tre giorni senza governo non sa con chi prendersela. Questo è vero. Questa è la battuta del giorno. Piove X ladro. Piove, si guarda, piove, Dini ladro. Luca Dini ladro. Quindi Paola, se prevarrà la linea Mattarella, cosa avremo? Non so, il ministro Padoa, governo tecnico, oppure Piero Grasso, governo tecnico, una roba così, insomma, dovremmo avere una cosa del genere. Ripeto, secondo me prima di Natale sotto l'albero ci sarà più di una sorpresa. Nel senso che si capirà chi, si capirà come, possa arrivare ad un Questa ammucchiatona invece che Renzi ha proposto, dentro tutti, questa bella ammucchiata, tutti dei no, questa mi sembra un po' una provocazione. È dentro tutti, è da studiare, perché dentro tutti... È più un titolo di qualche film, mi sembra, più che, insomma, sì, dentro tutti. Però è anche io trovo una provocazione... interessante, come dire, trasformate il vostro no in qualche cosa. Sì, però è chiaro. Volete il bene del paese? Allora dentro tutti, mettiamoci fingiamo di essere, non fingiamo, anche se non ci siamo, non c'è simpatia, dobbiamo essere d'accordo per risolvere tutte le questioni relative al terremoto, risolvere tutte le questioni relative. Ricordo che siamo il paese delle cause condominiali. Voi vi immaginate un governo con vabbè, comunque sentiamo qui Crozza. Sarebbe interessante, vediamo. Sarebbe interessante, ma non credo fattibile. Guarda, io la finestra ho aperto, ci sono due persone che hanno il cartello Alino Milan Premier. Sì, va bene. Uno sottosegretario alla cultura urla così. Ti prego, fai la pazza e urla fuori dalla finestra. No, urla che ti portano via con lei. Facciamo sottosegretario alla cultura. E agita il cartello. Ho capito. Forse agitava una camicia di Forza Bianca. Paola, no, Alina, giuro, la voce si è sparsa, te l'ho detto, tu non ci puoi credere. Va bene, dai, sentiamo qui Crozza. Crozza, ieri. Da questo referendum escono due vincitori indiscussi. È vero, Bersani, lei e il CNEL. Due realtà obsolete che nessuno ha mai capito a che cazzo servissero. Crozza è fantastico, perché Bersani gli ha detto non si realtà obsoleta e lui ride. La cos'è sta storia della mucca? La mucca adesso. Mamma mia, la mucca in corridoio che è diventata toro. Bersani ha detto che la mucca in corridoio è diventata un toro. Ecco, Bersani, se fossi in lei, io aggiungerei anche, e chiudo, perché ragazzi, le corna non le ho viste, ma i coglioni sì. Matteo, fai sereno. No, ma ecco, io questa cosa però la trovo francamente incredibile. Cioè, giustamente qualcuno oggi fa notare la risata di D'Alema. Luca Dini, mai visto? Cioè, Bersani è diventato un toro, gongolano come se fosse il loro avversario. Io veramente... Se lo dico. No, lo so benissimo che nella politica e negli stessi partiti, come si parlava anche ieri con Oscar Giannino, ci si odia, ma di un odio profondo. Ma io sono sconvolto. Sì, però bisognerebbe mettere, diciamo, al primo posto, almeno fingere, come dicevamo prima, l'interesse del paese. Io lo trovo veramente patetico, non voglio dire allucinante, ma patetico sì. Sì, c'è un odio viscerale. Però penso, diciamo, che li sentiremo ridere e parlare ancora per poco. Dice. Intanto noi facciamo così, andiamo alle informazioni sul traffico, mi chiedono alla sanità, adesso uno che passa sotto casa lo facciamo ministro della sanità in un attimo, sotto casa Saluzzi, state tranquilli. Poi vi voglio parlare dopo un po', dopo il traffico, anche di altro, non solo di politica, c'è anche altro dai giornali, tra poco. Con tutto il rispetto, si è un po' stufato con questa storia dei popoli e dei populismi. Ha votato il popolo. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Alessà, ma dillo a voce alta a Renzi che 40% non sono i voti per lui, sono i voti per il sì. Io ho votato sì, ma essi ci facessero proprio una faccia schiaffa. Come il possibile. No, per l'amor di Dio. No, ma perché? No, fermo. No. Sai, si parla addirittura di Franceschini come siamo a posto. Anche. Non solo non buca lo schermo, ma ti spondo anche i coglioni, quello lì. Questo era il giudizio di Alberto Forchielli 3 giorni fa. Paola, non è da commentare, ma Alberto Forchielli è così. Pare che Franceschini sia il dominus in questo momento, colui che decide un po' i giochi, e Alberto Forchielli da Singapore la vede così su Franceschini. Vabbè, teniamola lì. Ma non sentiamo più il contadino di Terni da un po'. Contadino di Terni? Non lo so, è sparito. Però in questo momento, secondo me, la sua invocazione, il contadino di Terni, prenderebbe quella famosa zappa. La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili. A spaccalucampo, diceva da mattina alla sera. La zappa da 7 chili. A zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo. una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Secondo me questa lui la darebbe a tanti. A chi daresti, Luca, questa ricetta del contadino di Terni? Chi è la persona che più la meriterebbe, secondo te, in questo? D'Alema. D'Alema. La zappa. Direttore. Allora, Paola, succede nella tua Roma? Succede, eccola, nel quartiere San Basilio? Dove c'è stata una rivolta popolare al grido, io lo dico così perché l'hanno detto così, via i negri da qui, succede che è stata assegnata una casa legittimamente a una famiglia marocchina. E succede che quella casa però è occupata abusivamente da italiani, lo dico così, così la gente capisce chi sono i buoni e i cattivi in questo caso. Avete capito? Assegnata legittimamente a una famiglia marocchina e è occupata abusivamente da italiani che non gliel'hanno data. Dice via i negri. Se fossero italiani forse, ma se no, e qui San Basilio nero, giallo, viola, dove vanno? Però lui è, questo non va, una guerra fra poveri, ci hanno cacciato via, siamo occupanti, hanno detto che questa casa era assegnata alla famiglia, la casa era assegnata, cioè fanno le vittime, capito? Neri, gialli, viola. Hai sentito, Paola, che è un orrore, che caro, che ci hanno detto vai al dormitorio, ma vacci te al dormitorio, oh, siete abusivi, e invece quei marocchini ne hanno diritto. È una brutta storia di quotidiana, oltre al di là del concetto della guerra fra poveri, che diventa poi una frase fatta e quindi la togliamo. È una brutta storia di intolleranza ulteriore. Tu dicevi le lotte condominiali, figurati, dipende se sei di Roma Nord o di Roma Sud, come a Milano se sei di X o di Y. Però è una brutta storia di ulteriore intolleranza. E tra l'altro la borgata, come scrive il Messaggero tutti i giornali, difende gli occupanti del palazzo. Al grido, tra l'altro, fuori i neri, cioè fossero stati bianchi, magari fossero stati italiani, magari li avremmo accolti. Bella. Cioè, capite? Bella. Posso ricollegarmi a quello che diceva prima in un commento la signora, basta dire populismi, ha votato il popolo. Certo che vota il popolo, è il popolo anche quello della borgata. Però il populismo è colpevole e va combattuto perché in questo momento è il cancro numero uno in Italia e nel mondo. Direttore, mi permetti una piccola sottolineatura? La parola populismo, il termine populismo, con tutto il suo atroce significato, sta quasi diventando un modo di dire dai, stanno vincendo i populismi, cioè la stanno mettendo al positivo, qualcuno la sta mettendo al positivo. Che è ancora peggio, perché vuol dire non guardare lo Zingarelli, andate a prendere un vocabolario e cercatelo su Twitter. È una mostruosità il populismo. È la mostruosità il populismo. Il populismo ha prodotto Adolf Hitler. Esatto. Così forse quel nome se lo ricorda qualcuno, ha prodotto Adolf Hitler e con lui tutta la compagine di mostri che sono seguiti. Populismo, Adolf Hitler, intanto, qualcuno che te lo ricordi. Intanto io vabbè, ovviamente adesso la gente ci dice siete vergognosi prima gli italiani, va bene, cioè anche metterla così, se non provate fastidio e nessuno ce l'ha con chi non ha una casa in difficoltà, diciamo intanto che chi occupa una casa, se non la toglie un marocchino la toglierà un italiano, comunque abusivo. A qualcuno la toglie. E poi, tra l'altro questa famiglia marocchina che viene intervistata ai giornali dice ma sono arrivati lì con i figli per legittimamente prendere possesso della loro casa assegnata da liste comunali eccetera, e con i figli insultati, i figli che piangevano, andate via negri, tornate dai coi gommoni. Cioè, capite? Certo, io devo dire sempre che quando ci sono queste situazioni vuol dire che c'è uno Stato, come dire, che un po' che gestisce male queste cose. Sì, però posso dire, non assolverei. Perché non c'è giustificazione. Una persona per bene non ci va e non le dice queste cose. Sono sicuro che lì nella borgata, perché al solito, scusa se uso il francese, sono gli stronzi che urlano. Gli altri stanno a casa e stanno zitti. Questo è vero. E ci saranno. Certo, come no. Ci saranno e come no. Allora, certo, io qua devo dire che alle 10 intanto Paola Saluzzi sarà su Sky, come sempre. Siamo pronti. Siete pronti. Il nostro Luca Dini ha una copertina di Ventifer, l'ho lasciata di là. Non l'ho portata in studio, ma ho visto che c'è Lady Gaga, mi sbaglio? È doppia questa settimana. Cosa ci volevo mettere in difficoltà. Cioè, Lady Gaga e Adele. Puoi scegliere. Ma tu ovviamente bella. Devi comprare entrambe. Ma aspetta, fammi capire, perché io l'ho visto, c'è Lady Gaga, ma se giro una copertina trovo Adele, un'altra copertina. No, devi tornare in edicola e comprarne un'altra. Ah, cioè a me arriva, allora mi posso lamentare, mi è arrivata solo quella con Lady Gaga? Beh, ma se ne mangiano tutte e due, scusa. Non lo so, ma come avete scelto quale mandarvi? È stata un'estrazione? No, è casuale. È casuale. Sì. Eccolo qua, infatti, due regine, due copertine, Adele o Lady Gaga, capito, per vendere dopo. Proprio, cara Paola Saluzzi, che trucchetti del mestiere. Allora, io sono già in edicola e prendo tutte e due. Prendo tutte e due. Se fossero tre, ne prenderei tre. Anch'io le prenderò tutte e due, ma tutte e due di Lady Gaga. Così, perché io sono un po' strano. Ma che ha fatto Adele, dai. No, vabbè, per dire, me le dia tutte e due, ma tutte e due di Lady. Però Lady Gaga, in questa posa un po'... così appoggiata su che cosa? Su un prato? Sull'erba. Ti guarda un po' di soppiatto con mezzo volto. Facevo meno carina Lady Gaga. Hai visto. Ti ha fatto scoprire qualcosa. T'hai visto. Va bene, dai, buon Sant'Ambrogio anche a Caterina che farà le fusa. Intanto Paola Saluzzi e Luca Dini vi ringrazio e alla prossima. La zappa non basta più, la mazza da 10 kg e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Anquo, Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti, Skate? 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori. Sono le 7 e 19 minuti. È festa, eh? È festa a Milano, è festa. C'è già gente che è andata via, il pontone, è Sant'Ambrose. E quindi a Milano è festa, non nel resto d'Italia. Oggi noi siamo qui e poi c'è l'8, il megaponte. Allora, siamo pronti a leggere il giornale alle 7:20 minuti. Questo è lo spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo, andiamo! Non c'è niente di più divertente... che commentare i giornali, ragazzi. Mercoledì 7 dicembre, eccoci qui con le aperture finanziarie, a quella del Sole 24 Ore che guarda i mercati. Piazza Affari corre con le banche, spread a 158 punti, BTP sotto il 2%. Queste le notizie positive. E poi tutti gli altri quotidiani sulla crisi di governo mettono in primo piano il punto di Mattarella, capo dello Stato. Corriere della Sera, inconcepibile il voto subito, è l'alto là di Mattarella. Per il Messaggero, Mattarella, no al voto subito. Repubblica, Mattarella e il PD frenano Renzi. E c'è Pisapia, io pronto a unire la sinistra. La Stampa, elezioni, Mattarella frena Renzi. Per il Fatto Quotidiano, Renzi prende altre due sberle. La Verità, le trame di Renzi per rimanere. Per il Giorno, Mattarella dice no a Renzi, come vedete il titolo più gettonato. Il Giornale, occhio al trucco, Renzi tenta l'inciucio per comandare ancora. Mentre l'Unità, Renzi, governo istituzionale o il voto. Libero invece indica con un titolo grasso che cola, Mattarella lo vuole a Palazzo Chigi, Piero Grasso, presidente del Senato, mentre il Manifesto mette Matteo da legare. Oggi Renzi impone l'ultima fiducia e sale al colle per dimettersi. Sul voto è già duello, invece è il titolo da avvenire. Come vedete nessun giornale si scosta dalla crisi di governo che vedremo, però voglio partire con la cronaca, altri articoli, a quello che è successo, ne abbiamo parlato un po' alle 6:30 a San Basilio, periferia di Roma, dove c'è un quartiere in rivolta. È un po' brutto quando si leggono queste generalizzazioni, ci saranno alcuni abitanti di San Basilio che si sono ribellati all'arrivo di quelli che, proprio le voci dicevano così, sono considerati i negri. Via i negri. Cosa è successo? È successo che è stata legittimamente assegnata una casa a una famiglia di marocchini, padre, madre, due figli. E allora sono andati questa famiglia di marocchini per prendere possesso di questa casa. Casa che però era occupata abusivamente da italiani. E allora, quando questi marocchini hanno cercato di far valere il proprio diritto, cioè dire, noi siamo stati, ci hanno indicato e siamo assegnatari di questa casa, eccolo qua, Roma, la borgata difende gli occupanti del palazzo, niente casa fuori neri. E lo dicono proprio così, come racconta il Messaggero a pagina 14, a una famiglia italiana gliela lasciavamo la casa, ma a quelli no, ci siamo stufati, a noi ci cacciano e dentro mettono gli stranieri, ci vogliamo aiutare tra di noi. Vabbè, spero che, a parte la grammatica, i ci noi, basta d'essere trattati in questo modo. Quelli, racconta il Messaggero, sono i marocchini, madre, padre, tre bambini, anzi non due, tre. Mentre Claudio Morea, cardiopatico, invalido, dice che si lascerà morire nell'appartamento occupato da 6 mesi con il nipote e il fratello, ma quelli non li farà entrare. Contro gli stranieri c'è un condominio intero. È la rivolta dei palazzi popolari in difesa dell'illegalità. Tornatevene coi gommoni nel vostro paese. Qui non entrate. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dice un gesto vergognoso da parte di questi cittadini che hanno impedito a questa famiglia, la famiglia di Murad Maslou, di entrare legittimamente nella casa assegnata. Murad Maslou, che parla a Repubblica e dice: se avessi saputo che sarebbe andata così non sarei andato coi miei figli, è stato orribile, più loro piangevano più la gente ci insultava. I bambini che colpa hanno? Ci gridavano: montate sul gommone, tornate a casa vostra. Ma i miei 3 figli, 7 anni, 5 anni, 1 anno, sono nati qui, vanno a scuola, hanno amici italiani. Una cosa del genere non mi era mai accaduta. Ero in lista d'attesa dal 2011 e quando sono arrivato a Roma ho vissuto 5 anni in una occupazione, poi siamo stati sgomberati, ci hanno assegnato alloggio in un residence. E dice questo cittadino marocchino: posso capire la sopravvivenza, tutti abbiamo problemi, ma non prendetevela con i bambini. Io e mia moglie Fatia abbiamo sempre lavorato, siamo brave persone, ora cercheremo un nuovo alloggio, certo non a San Basilio. E viene ad aggiungere: come non capirli. Per carità, senza criminalizzare come al solito il quartiere, ma questi occupanti di una casa abusiva. E guardate anche qua sulla Stampa: caccia ai migranti nelle case popolari, via i negri, qui vogliamo solo italiani. E vabbè, rimaniamo a Roma per un'altra vicenda. L'avete vista la foto, o meglio il video del il pizzardone, il vigile urbano che al gol di Nainggolan 2-0 della Roma esulta con un balletto alla Gianluca Vacchi allo stadio, cose che non si fanno. E c'è sempre questa mania di dire: ma sì, dai, no, è una cosa seria. Ma ve lo immaginate uno steward addetto alla sicurezza, il calcio inglese, quelli che non guardano manco la partita, stanno con la schiena rivolta al campo per guardare quello che succede sugli spalti? Ve lo immaginate fare una cosa del genere? Cosa provocherebbe di possibili reazioni dei tifosi? È una cosa grave, sei lì in divisa, devi mantenere l'ordine, segna un gol a Roma e esulti come se fossi un tifoso della curva sud. Ma voglio dire. E infatti Massimo Veronese racconta sul giornale a pagina 18 che ora rischia grosso, si becca il cartellino rosso. In una gelida nota, Diego Porta, comandante del corpo di polizia locale di Roma Capitale, fa sapere che è stato avviato un procedimento disciplinare nei riguardi del motociclista del gruppo Pronto Intervento Traffico che in servizio al derby domenica scorsa ha assunto in uniforme comportamenti da tifoso del tutto inopportuni e poco professionali. Per il giornale merita le attenuanti, vabbè, sempre così, il volemose bene, dai, il calcio, ha segnato un gol, ha esultato, era lì, allez. E va bene, andiamo avanti. Mi criticate sempre dicendo: è una buona notizia? Ce la dai una buona notizia? Beh, guardate, oggi è proprio una notizia, ma non buona, bella. Un qualcosa di, per carità, io non lo farei mai, ci vuole più di un cuore d'oro. Ma quello che racconta una samaritana. Sapete cosa sono le donazioni samaritane? Sono le persone che decidono di donare un organo, in questo caso un rene, a degli sconosciuti. E oggi questa donna, Paola, racconta con una lettera sul Corriere della Sera questa scelta. Io, che ho donato un rene, vivo una vita più piena. Tutto nasce da quando vede una cugina, Elena, 42 anni, che muore e dona gli organi. E allora, pensando a mia cugina, un giorno guardai una ragazza che sapevo sottoporsi alla dialisi 3 volte a settimana e all'improvviso capii: io sto bene, ho 2 reni che funzionano. Se ne dessi uno a quella ragazza o a chiunque nelle sue condizioni, staremmo bene in 2. E iniziai così l'iter degli accertamenti. L'esito positivo di ciascuna analisi mi apriva la porta a quella successiva. Fui fortunata, passo dopo passo si aprirono tutte le porte, fino a quella della sala operatoria, dove mi accompagnò il chirurgo che amorevolmente aveva condiviso con me questo cammino. Mi svegliai dopo l'intervento, immaginando il mio rene destro, dentro la sua culla, una specie di borsa frigo in cui riposava ed era alimentato. E poi è stato donato, non so a chi, e non so chi sia quella persona, non so nulla della sua vita, ma so la cosa più importante per me. Ora stiamo bene in 2. E mi piace pensare che questa persona possa vivere le sue giornate e pensare al proprio futuro con ritrovata libertà. Io credo che nella vita ciascuno possa incontrare tante, tante occasioni per trasformare l'io in noi, perché in tanti modi diversi durante il proprio cammino si presenta la possibilità di scegliere, di vivere questa trasformazione. Questa esperienza di donazione di un rene a una persona sconosciuta ha donato a propria volta 2 significati alla mia vita. Il primo è la ragione stessa di esistere, in quanto manifestazione del senso di comunità. Il secondo è aver dato alla luce una vita nuova, quella che ha davanti a sé la persona sconosciuta che porta in grembo il mio rene. E conclude questa lettera: mi chiamo Paola. È una bella lettera, una bella storia che viene raccontata dal Corriere della Sera. Certo, è una storia innegabile, di estremo coraggio. Chi di voi, dopo aver letto questa cosa, chi di voi sarebbe disposto, anche con 2 reni, a donarne uno a uno sconosciuto? Non a un parente, sofferente, a uno sconosciuto. E però ci sono, si chiamano appunto donazioni samaritane. Oggi il Corriere racconta la scelta di una di queste donne, in questo caso, che ha preso questa decisione. Come stride con questa notizia quella da Mani sul volante, la notizia che mi fa pinzare della giornata, tra l'altro Mani sul volante perché riguarda la motorizzazione civile di Napoli. Già il titolo Giusy Fasano sul Corriere della Sera pagina 29 dice tutto. Alla motorizzazione civile di Napoli 6 su 10 hanno guai con la giustizia. Ragazzi, è un rapporto del Ministero dei Trasporti, da finito tra l'altro anche all'autorità anticorruzione di Cantone, in cui si legge: in giallo sono evidenziati dipendenti che hanno procedimenti disciplinari recenti, in verde quelli che sono oggetti di procedimenti disciplinari penali chiusi, in azzurro i dipendenti che hanno precedenti procedimenti disciplinari penali aperti e sospesi da tempo, in rosso i dipendenti con esposti denunce inoltrati alle competenti procure. Ricapitolando, il 40% del personale è privo di pendenza giudiziaria, vuol dire che il 60% dei dipendenti della motorizzazione civile di Napoli hanno guai con la giustizia. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da BMW InnoVision, le risposte prima delle domande. Scoprile su innovision.bmw.it. Oh mia bella lino mia, che te brille de lontan. Alessandro Milan, il pauscia delle formazioni. Oh mia bella Madonnina, è Sant'Ambrose oggi, che te brille de lontan. Cioè, è il patrono di Milano, è festa qui a Milano, eh. Tu t'adore piscinina, Tite Domine Milan. Vabbè, dai, oggi ci sta. Sotati se viv la vita, se sta mai cui man in man. Canten tuc luntan de Napoli se mur, ma pe venen chi a Milan. E allora, altra musica, quella del governo, non così dolce, non così soave, ma è una musica che ci porteremo avanti per tutte le vacanze di Natale e chissà fino a quando. Ieri è risuonato forte, filtrato attraverso le colonne dell'Huffington Post e subito ha fatto il giro ovviamente di tutti i giornali, la posizione del Colle, la posizione del Quirinale, la posizione di Mattarella di fronte alla possibilità di andare alle elezioni è inconcepibile. Indire elezioni prima che le leggi elettorali di Camera e Senato vengano rese tra loro omogenee. Il risultato del referendum ha confermato un Parlamento con due Camere regolate da due leggi elettorali profondamente differenti. L'una del tutto proporzionale, l'altra fortemente maggioritaria, con forti rischi di effetti incompatibili rispetto all'esigenza di governabilità. Perciò Mattarella dice: prima ci vuole un governo, lo traduco io, per fare una legge elettorale omogenea. Tra l'altro, su tutto pende, per la legge elettorale, il 24 gennaio la decisione della Corte Costituzionale sull'Italicum. Qualcuno chiederà: ma perché il 24 gennaio? Non c'era un po' più di urgenza? Insomma, un paio di mesi scarsi di riflessione ci vorranno. Allora, di fronte a questo altolà, Renzi ha proposto una cosa che può suonare pazza, letta almeno sui giornali oggi, e cioè questa: o un governo con tutti dentro o alle urne subito. Il governo tutti dentro, cioè vuol dire un governo PD, Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Alfano, la Meloni. Cioè un governo tutti dentro, com'è che l'hanno chiamata, la Santa Alleanza, oppure Santa Alleanza della Cautela, così una Santa Alleanza della Cautela, oppure alle elezioni. Questi sono i due scenari di Renzi. Il retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera è questo. Renzi, sulla sua scrivania a Palazzo Chigi, ha segnato su un foglietto delle date. 19 o 26 marzo, al massimo 2 aprile. Sono queste tre le date in cui si potrebbero svolgere le elezioni anticipate. Questo ovviamente nella testa di Matteo Renzi. Per questo motivo però ha bisogno, oggi, alla direzione del PD, di inchiodare il partito alla sua linea. Oppure, dice lui, me ne vado. Questo è il segnale. Insomma, il Partito Democratico deve scegliere, secondo questo retroscena, o si fa un governo di responsabilità con tutti dentro o si va a votare al più presto con la legge modificata dalla Corte Costituzionale alla Camera dei Deputati e che potrebbe non avere più il ballottaggio, e con il consultellum e lo sbarramento all'8% al Senato. Oppure, se Franceschini e Bersani dicono che si potrebbe fare un governo purché sia per andare avanti e il PD sceglie questa strada, non sarò io il segretario che farà questa roba. Non faccio quello che arriva al 2018. Li saluto, liberi di fare quel che vogliono, però lo spiegano loro al paese. Ma Renzi non vuole vivacchiare. Governo con tutti o le urne? Secondo Goffredo De Marchis, retroscena di pagina 3 di Repubblica, Renzi dice: va bene, quel 40% che ha votato sì, ok, non saranno tutti elettori miei, non saranno 13 milioni, ma saranno 10, 11, 12 milioni, lo vedremo. E questo lo vedremo vuol dire voglio andare alle urne. E dice ancora Renzi ai suoi collaboratori: il titolo giusto sui giornali non è Renzi vuole le elezioni anticipate, ma Renzi non ha paura delle elezioni anticipate. Questo spiega i suoi interlocutori. Chi frena? Beh, chi frena è Mattarella, l'abbiamo detto, e secondo Vittorio Feltri su Libero frena perché Mattarella ha un nome, che è Piero Grasso. Vuole un governo con Piero Grasso, governicchio per finire nel pantano. Questo è come lo definisce Vittorio Feltri sul Libero. Ma oltre a frenare, oltre a lui, c'è anche chi frena all'interno del Partito Democratico. Franceschini, per esempio, è l'uomo che ha in mano le sorti del capo, è l'uomo che vanta un rapporto privilegiato con il Colle, è l'uomo che tiene le redini dei democratici. Questo racconta Roberto Scafuri sul giornale a pagina 3. In tutto questo Bersani dice il partito non si divida, oggi c'è la direzione del PD, puntata numero 4876 dello psicodramma del Partito Democratico. Il partito non si divida, dice Bersani, e che aggiunge no al governo con Forza Italia, dunque è una risposta al governo dentro tutti. Cuperlo invece apre all'allargamento, c'è da dire che è tutto un teatrino, ma la situazione è molto seria ovviamente e potrà evolvere in diversi modi. Dall'altra parte non pensiate che siano molto uniti, per esempio Forza Italia. Berlusconi pare ora che voglia un po' frenare, no alle elezioni subito, magari a novembre possiamo andare alle elezioni. D'altronde il centrodestra non è che è molto unito in questo momento, primarie sì, primarie no, litigano Salvini e Berlusconi, se le mandano a dire ogni giorno. Il 5 Stelle, beh, secondo i giornali anche il 5 Stelle non è che siano unitissimi. Per esempio c'è un po' di Maretta, oggi si vedranno. Fico sfida Di Maio, ci sono anch'io, candidatura a premier. Questo è il titolo di pagina 10 di Repubblica. I deputati invece tifano Di Battista, la base è con lui. Grillo nega le larghe intese. E quindi anche questa sarebbe una risposta al Renzi, governo dentro tutti. Subito alle urne vuole andare Beppe Grillo. In tutto questo si smarca Pisapia e si fa notare Pisapia, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, intervistato un'intera pagina, Sebastiano Messina su Repubblica, si propone, dice: sono pronto a unire la sinistra fuori dal PD. Ma come fuori dal PD? Ma non so, vabbè, forse un altro partito, un altro movimento. È quello di cui si sente la mancanza, sono sicuro. Ne sente la mancanza anche Mauro Meazza, infatti vorrebbe fondarlo anche lui subito, un bel partitino. Caro Mauro, buongiorno, come l'abbiamo chiamato il nostro partito che sta per nascere? Buongiorno, ma lo facciamo tu ed io? Ma va bene, dai, già in due si rischia. Poi, visto che nei partiti già ci si accoltella, ci accoltelliamo a vicenda e il partito nasce e finisce. Così. Vabbè, per noi possiamo già unire, diciamo, due tifoserie, quindi esatto, saremmo già avanti. Partito Milan-Inter, il partito Milan-Inter potremmo fare. Beh, io già userei l'alfabeto, quindi Inter Milan. Senti come suona meglio, Milan Inter. Già sul nome siamo separati. Ecco. Comunque, se ti appassionano i temi della legge elettorale, sì, di solito non ti appassionano. Tantissimo, non vedo l'ora. Vabbè, comunque guarda, io ti consiglierei, leggi Dalimonte oggi su Sole 24 Ore, che spiega le due leggi, diciamo, poco compatibili tra di loro per in questo momento andare a votare da una parte la Camera e in un altro modo il Senato, ma è un articolo, diciamo, da degustazione, non da meditazione, ma da degustazione, forse mi rendo conto non proprio per non appassionerà proprio tutti. Invece sono sicuro che appassionerà tutti il fatto di sapere che la manovra sì, la votiamo, però poi bisognerà integrarla con alcune cosucce che si rischia di perdere per strada, tra cui ti segnalo anche le correzioni per allineare fiscalità e bilancio che sono abbastanza attese dalle imprese e dai professionisti, ma di questo, anche di questo riferiamo a proposito della manovra oggi sul Sole 24 Ore. È un passaggio un po' da Radio Fisco, mi rendo conto, però sempre con Radio Fisco ti segnalo che oggi sul Sole abbiamo l'allegato dedicato proprio al contenzioso, alle liti con il fisco. Hai delle liti con il fisco? Questo io sì, non lo so, ma fammi arrivare a casa e aprire la posta. E poi controlli, fai bene. Oh, naturalmente, importante, nelle pagine di finanza che tu leggerai avidamente, bravo. Oggi sei particolarmente attento, vedo. Questo via libera della UE ha questa maxi acquisizione Microsoft per LinkedIn. Conosci LinkedIn, c'è questo network professionale, soprattutto è un'operazioncella da 26 miliardi più o meno, quindi una cosuccia a cui non so se vuoi partecipare anche tu, vuoi il mio contributo. Ma sì, mettiamo qualcosina. Poi invece ti segnalo, questa volta sì, da meditazione, il contributo che abbiamo di Cristiano Gori sul rischio povertà per il 28,7% degli italiani. E lì purtroppo tra le cosucce che rischiamo di perderci con questi così ribaltoni, cambiamenti di governo, di maggioranza e così via, c'è anche un piano contro la povertà, diciamo, per l'inclusione sociale, che era avviato ma che adesso subirà fatalmente o rischia di subire, diciamo così, una battuta d'arresto. Mm. Vuoi parlare di condominio anche se è mercoledì? Ti spiace? Dov'è a litigare? Un po', guarda, c'è questa lite, diciamo, c'è stata questa lite che è arrivata fino in Cassazione, perché si discuteva se l'attività di un asilo all'interno di un condominio potesse essere rubricata come rumorosa. Un asilo, ovviamente i bambini, sai, un po' di chiasso lo fanno, per fortuna, però la Cassazione ha detto, ohimè, se il regolamento condominiale vieta le attività rumorose, non si può mettere asilo in condominio. Leggi tutto su Norme e Tributi. Non ti dimenticare che anche oggi guida il decreto fiscale la pericena della manovra, dedicata questa volta ai nuovi tempi e ai nuovi tetti, ai nuove soglie per i rimborsi IVA. Io per oggi mi fermerei anche qui, ma domani mi pare che tu ti dedichi al ponte. Domani è venerdì anche. Ah, domani è venerdì, questo è inaudito, assolutamente. Va bene, ne parlerò con chi di dovere, e a questo punto per chi fa il ponte naturalmente buona vacanza, e per tutti gli altri, ma anche un po' per chi fa il ponte, traffico! Siamo mica qui a leggere il giornalino dell'oratorio, Alessandro Milan, orco boy, ragazzi. Il Bersani dell'informazione. Vabbè, non male, non male questa imitazione. Grazie, caro ascoltatore. Tra l'altro, per appendici del referendum, c'è una polemica sul Fatto Quotidiano. Giampiero Calapà racconta a pagina 9 che ci sarebbe, si usa il condizionale, un sottosegretario, il sottosegretario all'interno Giampiero Bocci, che è stato, che, il titolo è questo, va a votare con l'elicottero dei pompieri. I vigili del fuoco, alcuni denunciano, non aveva impegni istituzionali, faceva propaganda per il sì, ha fatto un giro nei luoghi del terremoto ad Arquata, ma anche con un passaggio a casa nel paese d'origine, Cerreto di Spoleto, tutto a bordo di due elicotteri in forza del comando dei vigili del fuoco di Varese, partiti da Malpensa per atterrare da Ciampino, per poter trasportare da Ciampino il sottosegretario del Ministero dell'Interno Bocci. 2.000 euro all'ora di spesa, in complesso 7 ore, quindi 14.000 euro, per carità, non tantissimo il bilancio dello Stato, se fosse vero, certo, non una bella figura istituzionale. Invece, a proposito di 5 Stelle, c'è un pezzo di giunta che rischia di cadere a Roma. È l'assessore Paolo Berdini, che è un esterno urbanista, spesso è stato anche nostro ospite, sul tema dello stadio della Roma. Litiga e è sempre più isolato, secondo i giornali. Berdini ha già un piede fuori dalla giunta Grillo. Non è la prima giunta Grillo, la giunta Raggi, insomma, la giunta del Movimento 5 Stelle. Non è la prima volta che si vocifera di questo, staremo a vedere. Certo, come ha detto Mauro Meazza, trovate sui giornali ovunque questa analisi dell'Istat, del un italiano su quattro a rischio povertà. Forse non ha tutti i torti il Manifesto quando a pagina 6, sotto la dicitura poveri noi, racconta con Roberto Ciccarelli che all'origine del no a Renzi c'è anche questo: uno su quattro degli italiani a rischio povertà, ciò che dice l'Istat. Siamo nel 2015, era il tempo del rottamatore trionfante Matteo Renzi, che dovrebbe dimettersi a ore perché il 60% degli italiani ha rifiutato la sua riforma costituzionale, scrive Ciccarelli. E qui troviamo una persona su quattro che era ed è a rischio povertà ed esclusione. Criticità per le famiglie più numerose, quelle con tre o più figli, e sono passate dal 39,4% del 2014 fino al 51,2% per i nuclei con tre o più minori di rischio povertà. Questo sul Messaggero, ma lo racconta anche Avvenire, lo faccio vedere in diretta sul mio profilo Facebook pubblico, eccolo qua, l'Italia a rischio povertà. Vieni qua Lorenzo, cosa fai? Ti sposti? Io mi sposto col giornale, tu ti sposti. L'Italia a rischio povertà, ha tre figli, 10.000 euro, abita nel Mezzogiorno. Questa è la fotografia tipica dell'italiano in difficoltà. Gli italiani, tra l'altro, studiano molto, ma imparano poco. Attenzione! Questi sono i test OCSE PISA, cioè i test internazionali. E Gianna Fregonara e Orsola Riva raccontano a pagina 31 del Corriere della Sera che, a sentire loro, i quindicenni italiani sono tra i più studiosi d'Europa. Studiano in media 50 ore alla settimana, Così hanno raccontato nei questionari della rilevazione OCSE PISA 2015. Studiano 29 ore a scuola e 21 di compiti a settimana, di media. Un terzo dei loro coetanei tedeschi e finlandesi che studiano 36 ore. Il 20% in più di giapponesi e svizzeri. Studiano tantissimo. Eppure, quando fanno i test internazionali, sono a livelli bassi rispetto agli studi. E come mai? E questo è un mistero. Sono tra gli ultimi in Europa. E in che cosa sono i primi? In cosa sono i primi? La specialità che aveva a scuola Peter Bescapè, bigiare, bigiare, siete i primi genitori, gli italiani, gli studenti italiani sono i primi in Europa per bigiate, capito? Ah, ragazzi, ragazzi, va bene. Cosa racconta la cronaca? Ci sono ancora tante notizie incredibili di questa coppia accusata di essere lui il dottor Morte, lei l'infermiera killer. A Saronno ci sono sviluppi, si cominciano a scoprire anche i buoni in questa vicenda. Per esempio questa infermiera di origini finlandesi, Clelia Leto, racconta il Fatto Quotidiano con Davide Milosa, pagina 15, ma lo racconta anche il Corriere della Sera con Andrea Galli e Roberto Rotondo, questa infermiera che si oppose, denunciò il cosiddetto dottor Morte, poi tutto da provare, c'era un processo che sia il dottor Morte, rifiutai di somministrare i farmaci e da qui le minacce, ma lei salvò una paziente. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, Elisabetta Ambrosi, una pagina intera sul Fatto Quotidiano per i dislike, quelle app che ti dicono che la gente non ti segue più sui social, ti ha abbandonato, ti ha defollowato e da qui la gente diventa infelice, oddio, infelici, mi hanno defollowato, non mi seguono più, sono infelice. Ma chi se ne frega!